Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo chiaramente di nuovo della vertenza acciaio, perché come i nostri GR24 vi hanno già anticipato, da un lato c'è la notizia positiva sulla ST e quindi Terni, gli acciai speciali di Terni, per cui tutte le parti, sindacati e ThyssenKrupp, hanno firmato l'accordo, non ci saranno licenziamenti, ci sono 290 esuberi, tutti con adesione volontaria, e questo è sicuramente un buon risultato. È tolta dal tavolo la cassa integrazione. E poi, e tant'è che sono soddisfatti sia i vertici della ST di Terni, e quindi Lucia Morselli, che i sindacati italiani. L'Ilva invece resta un dossier aperto, tant'è che il Premier Matteo Renzi, poi lo ascolteremo, non ha escluso un intervento pubblico sull'Ilva, in attesa di un risanamento dell'azienda e della soluzione delle questioni ambientali. Ovvio che l'ipotesi, come abbiamo già anticipato anche noi, riguardi soprattutto la cassa, depositi e prestiti. Ci occuperemo d'acciaio da un lato e quindi delle trattative in corso, dall'altro dei consumi degli italiani, che so che può non sembrare una notizia, ma oggi abbiamo anche il dato, sono al palo, nel senso che il reddito disponibile, secondo lo studio oggi presentato dalla Confcommercio, il reddito disponibile degli italiani è tornato al livello del 1986, aspetto che qualcuno mi scriva che nell'86 si stava bene, con un altro potere d'acquisto, e un arretramento di 27 anni, praticamente dai livelli massimi del 2007, l'anno pre-crisi, l'italiano in media ha perso 2.700 euro di potere d'acquisto a testa. La spesa pro capite è scesa di 1.700 euro rispetto al 1997, quindi il potere d'acquisto è andato indietro di 27 anni. I consumi sono tornati al livello del 1997, e fin qua diciamo la fotografia di quello che è successo. Il problema è che secondo la Confcommercio anche a dicembre non vi saranno dei grandi incrementi nei consumi. A ottobre si è avuto il quinto mese consecutivo di stagnazione nei consumi. La Confcommercio stima che per 7 italiani su 10 sarà un Natale molto dimesso, anche con un calo anche dell'acquisto dei doni. Visto che si parla di Natale, ma legandolo in qualche modo al tema, nella seconda ora ci occuperemo dell'iniziativa che anche quest'anno è stata lanciata oggi, Teleton, quindi la grande diretta per la raccolta e ricerca fondi sulle malattie genetiche rare. Perché? Perché i dati di Teleton, oltre ad essere importanti da un punto di vista e fondamentali da un punto di vista della ricerca medica, sono anche interessanti da un punto di vista economico, cioè quanto hanno saputo raccogliere in questi anni, da dove arrivano anche le fonti. Per cui sì, i versamenti spontanei dei privati attraverso SMS, ma anche gli investimenti di gruppi, anche gruppi farmaceutici, e come questi soldi vengono utilizzati, un tema che spesso tocchiamo quando parliamo del no profit e di chi raccoglie fondi per la ricerca. Quant'è la percentuale tra fondi raccolti e fondi effettivamente utilizzati e fondi che invece servono per mantenere la struttura stessa? Intanto vi do subito il numero, che è 45501. Dall'8 dicembre al 14 si invia un SMS a questo numero e si donano 2 euro per la ricerca sulle malattie genetiche rare. 45501. Ogni tanto ci occupiamo anche di cose belle e positive e non solo di come i soldi vengono sprecati. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo subito con le notizie in breve dalla borsa. Milano è positiva dell'1,14%, Parigi più 0,11%, Francoforte più 0,40%, Londra meno 0,17%, l'America è invariata invece. Sui titoli di nuovo forte Fiat Chrysler più 4,30%, ha guadagnato 35-40% da quando ha annunciato, diciamo, la quotazione della Ferrari il titolo. Pop Milano più 2,80%, Pop Emilia Romagna più 2,5%, Banco Popolare più 2,40%, Telecom più 2,40%, Azimut più 2,30%, ST Microelectronics più 2,20%. Come A2A il 2% lo guadagnano sia Finmeccanica che Yux. Invece Monte dei Paschi perde l'1,80%, Enel Green Power l'1,30%, Buzzi Unice meno 1,20%, Moncler più 0,40%, Saipem recupera un pochino, pochissimo, più 0,40%, Eni in crescita invece anche oggi più 0,80%. Come già anticipavamo ieri in metro, la vicenda della sospensione del gasdotto South Stream da parte della Russia, beh, vi erano tutte delle clausole, come sempre avviene in questi casi per i contratti, di risarcimento nel caso venisse sospesa l'opera. Faccio notare che oggi è particolarmente debole rispetto ai livelli degli ultime settimane il rapporto di cambio euro-dollaro. L'euro è sceso a 1,2316 e si avvicina a quota 1,22. Inizia a essere un calo significativo, se ricordiamo il livello di qualche mese fa, 1,41-1,42. Restiamo sull'economia internazionale. Di nuovo a far notizia, ce ne siamo occupati anche ieri, è la Russia. Non si ferma infatti la discesa del rublo nonostante la recente mossa della Banca Centrale di Mosca, che lunedì scorso è intervenuta con un'operazione da 700 milioni di dollari per sostenere la valuta, cioè comprando rubli e vendendo altre valute, essenzialmente dollari ed euro. Secondo alcune voci la banca centrale russa si è mossa anche oggi, ma non è servito, perlomeno non sappiamo cosa sarebbe capitato senza l'intervento, ma sicuramente non ha invertito la rotta, perché anche oggi il rublo è molto debole. Da inizio anno ha perso circa il 40% nei confronti dell'euro e il 60% nei confronti del dollaro. E da inizio anno la banca centrale russa ha messo qualcosa come 90 miliardi di dollari, di cui 50 miliardi solo negli ultimi due mesi, per contrastare la caduta del rublo, ripeto, comprando rubli e vendendo dollari e anche euro. Non è servito molto, anche perché nel frattempo la borsa di Mosca ha perso il 21%. E come ricordavamo ieri, la Russia per la prima volta da anni avrà un 2015 in recessione. Doveva fare più 1,2%, farà meno 0,8%, con un'inflazione bella alta al 7,5%. Ripeto, è chiaro che il braccio di ferro Mosca-Bruxelles e Mosca-Washington è tutto sulla crisi ucraina e risente e rispecchia ragionamenti di carattere geopolitico. Però sta costando parecchio cara a Putin questa posizione, e ci si chiede da più parti, ce lo siamo chiesti modestamente anche noi, se veramente il presidente russo avesse considerato tutti gli effetti economici di questo braccio di ferro, perché van bene le sanzioni sull'Europa, che pesano anche sui produttori italiani, e come se pesano, ma in questo momento chi sta subendo i danni peggiori in assoluto è proprio la Russia. Abbiamo un rendimento del titolo del BTP russo a 10 anni che sfiora l'11%, pensate che nel 2007 era al 6,2%, quindi per investire in debito russo gli investitori chiedono un ritorno dell'11% sul capitale investito. I credit default swaps, i famosi CDS, che diventarono famosi durante lo scoppio della crisi nel 2008, sono saliti a 345 punti. E Standard & Poor's, una delle agenzie di rating, ha comunicato che il voto di Mosca, attualmente è una triple B meno, è a rischio proprio a causa delle tensioni geopolitiche. Il debito sovrano estero di Mosca in realtà non è molto alto, è di 57 miliardi, ma le aziende russe hanno moltissimi finanziamenti in valuta, cioè hanno chiesto soldi in prestito in dollari o in euro. Voi capite che se avete un prestito in dollari o in euro e siete un'impresa privata russa e il dollaro si è rivalutato del 60% e l'euro del 40%, vuol dire che il vostro prestito è diventato del 60% più caro nel caso fosse in dollari, o del 40% più caro nel caso fosse in euro. E tant'è che hanno finanziamenti in valuta estera per 500 miliardi di dollari le imprese russe, di cui 170 miliardi di questi finanziamenti scadono nel 2015, cioè vanno ridati questi prestiti nel 2015. E tant'è che il ragionamento che si fa non è solo sul presente, sulla debolezza negli scambi commerciali dovuta alle ritorsioni, agli embarghi, le ritorsioni, ma è proprio sulla tenuta complessiva del sistema l'anno prossimo. Sull'euro, volete sapere il rapporto euro-dollaro, a che livello siamo? Siamo al livello più basso, quindi all'euro più debole, dall'agosto del 2012. Una buona notizia sull'Italia, sempre in tema di debito, arriva di nuovo dai BTP a 10 anni. È sceso a un nuovo minimo storico, quindi vuol dire che non è mai costato così poco all'Italia trovare finanziatori per il suo debito a 10 anni. Il BTP è sceso sotto il 2%. E il differenziale, lo spread con il rendimento tedesco, sempre di un'obbligazione a 10 anni, del BTP, del Bund tedesco a 10 anni, è sceso a 126 punti base. Questo è un livello veramente basso, obiettivamente ampiamente precedente al 2011 e all'attacco all'euro che ha visto l'Italia, ahimè, essere il negativo protagonista. Ora sto per leggere una notizia che chiaramente, con quanto stiamo raccontando sul verminaio della cupola mafiosa, uso le parole del procuratore Pignatone, della cupola mafiosa su Roma, verrà letto anche come elemento di attualità. È un verminaio vero e proprio, per ora lo lasciamo alle cronache giudiziarie, poi non escludo di farci anche un approfondimento appena tutto i perimetri saranno chiari. Faccio notare, segnalo l'articolo di Claudio Gatti di oggi su Sole 24 Ore e questa mattina nei nostri GR, che apriva uno squarcio su un altro aspetto di questa cupola e nel caso specifico quanto rendesse, diciamo così, il business degli sbarchi clandestini. Mi fa schifo definirlo business, cioè fa schifo pensare a qualcuno che facesse business. Faccio notare che nelle intercettazioni si segnala come avesse dei rendimenti, fosse più redditizio del traffico di droga. Perché questo riferimento? Perché oggi, in coincidenza, no, ma è uscita la classifica Transparency International, dove si va a vedere quali sono i paesi più corrotti. Allora, attenzione, perché la classifica valuta la percezione della corruzione. L'Italia comunque è il paese dove la percezione della corruzione è più diffuso nell'intera Europa, dopo la Romania. Praticamente siamo nella classifica mondiale al 69esimo posto, tra la Grecia e la Romania. La Grecia è prima di noi, in una classifica che comprende 175 stati. Siamo a livello dell'anno scorso, eravamo fanalino di coda nei paesi del G7 e tra i membri dell'Unione Europea. Possiamo vedere un aspetto positivo nel notare che rispetto agli anni scorsi l'Italia ha fermato una discesa continua, cioè è dal 2011 che noi siamo al 69esimo posto. È una magra consolazione. Nel panorama globale, in una scala da 0, che vuol dire che sei un paese gravemente corrotto, a 100, che sei assolutamente pulito, noi becchiamo 43 punti e cioè non becchiamo nemmeno la sufficienza. Vanno meglio di noi al Sudafrica, il Kuwait, il Montenegro, anche l'isola africana di Sao Tomé. In cima alla classifica, nel senso i paesi più puliti, sono Danimarca e Nuova Zelanda, in fondo alla classifica Nord Corea e Somalia. Vengono utilizzate 12 fonti diverse di dati da ben 11 diverse istituzioni internazionali. Ha pesato, lo fanno notare il curatore del rapporto, l'arresto della caduta, nella classifica di Transparency International, Da un lato la legge Severino sulla corruzione, in senso positivo è pesato, e poi anche il provvedimento più recente del governo Renzi, che ha attribuito nuovi poteri all'autorità anticorruzione, nominando, come molti sanno, il presidente Raffaele Cantone. Questo ha contribuito a non peggiorare la nostra situazione, mentre ha in parte riequilibrato o sostanzialmente affossato gli elementi buoni, gli scandali recenti sull'Expo e sul MOSE, che hanno avuto un eco internazionale. E poi in generale il senso di una diffusa impunità per corrotti e corruttori. Devo dire che se uno va a leggere solo la cronaca di quello che hanno scoperchiato i magistrati a Roma e si chiede anche banalmente come cavolo fosse possibile che certe persone fossero ancora a piede libero e poi vicine all'ex sindaco. Chiaro che mi riferisco a Calminati, ma non è solo lui, cioè, insomma, come, non è solo problema della corruzione, è capire perché certe persone quali protezioni abbiano avuto, per cui è ovvio che poi in queste classifiche, no, cosa volete che facciamo? Già un miracolo che non scendiamo. Allora, andiamo subito ai consumi degli italiani, poi passeremo anche alla vicenda dell'acciaio e alla vicenda Telethon. Ha ragione un ascoltatore che dice: se lei è raffreddato, metta la sciarpa di Telethon. Sì, non si vede, però il numero per Telethon parte dall'8 dicembre, però la campagna, attenzione, è 45501 per un SMS. Ne parleremo ampiamente con la direttrice di Telethon nella seconda ora del programma. Allora, 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Oggi saltiamo la rubrica, vedete come poi il lapsus è freudiano, purtroppo sta diventando una rubrica, non vorremmo che fosse, l'aggiornamento sugli sprechi dei nostri enti locali. C'è qualche buona notizia sui dipendenti delle autostrade siciliane che dovranno restituire parte degli stipendi d'oro e anche qualche notizia, ma la daremo domani su Foggia. Andiamo subito sui consumi o non consumi degli italiani. Allora, i consumi degli italiani, io so che qua le note dolenti sono così tante che la notizia la fanno le note positive. Diciamo che sono fermi, non sono calati, non dovrebbero calare ulteriormente. Il dato di ottobre segnava il quinto mese di fila di consumi fermi. L'ufficio studi di Confcommercio, nell'ultima indagine sui consumi degli italiani, dà un titolo abbastanza emblematico: i consumi dentro la gabbia fiscale. Sono tornati al livello del 1986, o meglio, il reddito disponibile è tornato al livello dell'86, siamo tornati indietro di 27 anni, meno 2.700 euro a testa. I consumi sono tornati indietro di 17 anni, al 1997, ma rispetto al 97 la spesa pro capite è scesa di 1.700 euro. Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. Andiamo in prospettiva, in passato ormai insomma, è cosa nota, anche se fa impressione parlare dell'86 e del 97. Le vostre previsioni dopo i dati diffusi anche dall'Istat sul mese di ottobre, le vostre previsioni sul mese di dicembre e soprattutto, visto che non immaginiamo un brusco e significativo cambio di tendenza, ma se arriva qualche segnale, qualche sintomo di una ripresa dei consumi delle famiglie? Per adesso questi segnali non ci sono. Diciamo che da giugno a ottobre non abbiamo segni meno. Ora, questa è una cosa buona, anche perché se guardiamo al passato, appunto, è una cosa buona. L'aspetto negativo è che, finita una lunghissima recessione, sembra che siamo entrati in una specie di stagnazione cronica, quindi c'è bisogno dello shock. Gli elementi favorevoli dal punto di vista macro lei conosce benissimo, anche i suoi ascoltatori: qui abbiamo un deprezzamento dell'euro e certamente anche le materie prime petrolifere possono aiutare un paese trasformatore come il nostro. Quindi il 2015 sostanzialmente punta su questi due aspetti, oltre alla riduzione dei tassi di interesse. Dal punto di vista interno non è che si veda ancora granché. Per dicembre la reintroduzione delle imposte patrimoniali sulla residenza, sull'abitazione di residenza, cioè la TASI, ridurrà l'ammontare delle risorse disponibili per i consumi aggiuntivi di dicembre, quelli relativi alle tredicesime, e quindi anche dicembre sarà un mese complicato, però la propensione agli acquisti rimane buona, quindi tutto sommato possiamo essere fiduciosi, certo fiduciosi sui decimi di punto. No, vabbè, ma cambia, nella vita uno si adatta a tutto, no? Darwin, aspetta. Darwin ha spiegato molto bene nel principio della selezione naturale, che alcuni le interpretano e ricordano male, che non vince il più forte, vince quello che si adatta di più. Lo dico quasi con una battuta, perché se avessimo fatto questo collegamento 5 anni fa, e diceva siamo ancora messi male, e invece in realtà siamo così messi male che anche vedere che non calano i consumi è un buon dato. Non so se sto facendo capire quanto ci stiamo riadattando alla nuova situazione. Certo, 5 anni fa, con 5 mesi di consumi fermi, avremmo detto mamma mia, siamo in stagnazione, certo, c'è la crisi. Adesso diciamo no, ma tutto sommato non sta andando male quest'anno, perché sostanzialmente non peggioriamo rispetto all'anno prossimo. Che guardi, è esattamente il ragionamento che hanno fatto gli italiani quando a fine 2013 tutti gli indici di fiducia, lei se lo ricorderà, erano positivi, consumatori e imprese, e tutti gli economisti, gli analisti hanno capito che questo fosse il preambolo alla ripresa economica, mentre gli italiani avevano solo detto non di essere fiduciosi che le cose migliorassero, ma che le cose non sarebbero peggiorate. Questo cambia completamente l'atteggiamento, e infatti tu hai dei consumi fermi e non in aumento, e anche noi diciamo le cose non sono andate così male perché non sono peggiorate. Però un conto è dire che le cose andranno meglio perché sai che, e quindi investirai e consumerai di più. Un conto è dire che le cose, che sei fiducioso, ma semplicemente perché pensi che le cose non peggioreranno, cambia il mondo, Certo, è bella. Ma questo, ecco, ma giustamente quello che dice è perfettamente condivisibile, ma è anche abbastanza drammatico, perché una cosa è il linguaggio che si adatta alle mutate condizioni economiche, una cosa sono per esempio le aspettative dei giovani. Chi ha una vita davanti e deve sviluppare lavoro, reddito e consumi, e questa storia delle aspettative decrescenti la prende molto molto male. Sto pensando per esempio al grande astensionismo, al disagio sociale, che è testimonianza e riflesso del fatto che le persone non credono più molto né nelle istituzioni, gli aspetti della corruzione ci danno l'ultima botta, né nelle prospettive di reddito future. Quindi per noi è semplicemente un mutamento di linguaggio, per i giovani, soprattutto per i giovani, è un mutamento di prospettiva molto grave. Chi pagherà le nostre pensioni se non cresce il prodotto lordo, se i giovani non riusciranno ad avere dei posti di lavoro con una certa stabilità, certo, e discorrendo? Cioè, diciamo, esistono delle implicazioni che non sono solo sociologiche certo, o linguistiche, ma purtroppo molto economiche. Adesso io non è che però mi immagini che, per carità, poi questa è una rivoluzione, non è più una crisi, per cui uno delle rivoluzioni sa come le inizia, non sa come le finisce, però non è che mi immagini che per i prossimi anni continueremo a avere un PIL meno 0,2 più 0,1, perché sennò, voglio dire, facciamo un altro programma. Detto questo, Bella, è chiaro che poi, tradotto in comportamenti concreti, lei sta facendo notare come alcune scadenze fiscali e anche alcuni aumenti delle tasse abbiano eroso altri benefici. Faccio notare che oggi il Sole aveva tutta la parte che riguarda il pagamento di IMU sui terreni agricoli che erano prima terreni montani diventati poi agricoli. Domani, sempre il Sole 24 ore, punta l'attenzione sulla terza scadenza fiscale che attende tutti i consumatori a fine anno, quindi il saldo della Tari, il tributo sui rifiuti che ha sostituito le vecchie tasse. Resti con noi, Bella, ho il metro, la pubblicità, poi vorrei capire invece la prospettiva a breve, a brevissimo, sul Natale, praticamente ci siamo, e le indicazioni che vi stanno arrivando. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. 17:39 minuti. Allora, una risposta velocissima a alcuni ascoltatori sulla vicenda romana, la cupola mafiosa. Ripeto, non ce ne occupiamo ancora tutto in divenire. Io non ho mai detto che la colpa sia solo dell'ex sindaco Alemanno, della giunta di Alemanno. Ho detto che Carminati era un suo collaboratore. L'inchiesta sta dimostrando che ci sono state, per essere buoni, delle forti infiltrazioni anche nell'attuale giunta Marino. Nessun problema. E non ho mai detto che Alemanno l'abbia lasciato libero. Non mica fa il magistrato Alemanno. Alemanno, casomai, la colpa politica e amministrativa di esserselo preso in casa. La vicenda di Carminati, ma rientra in altro tipo di programmi, è tutta ancora da scrivere. Come mai un personaggio del genere fosse a piede libero? No, è tutta da scrivere. Bisogna capire che protezioni ha avuto, e non certo le ha avute in questo senso da un sindaco, ma deve averle avute da altri tipi di autorità. Detto questo, invece, per quello che riguarda i consumi, qualcuno dice: ma magari semplicemente abbiamo smesso di sprecare e di eccedere nei consumi fino al 2007, quando c'era il credito facile, quando le banche prestavano soldi a tutti anche per comprarsi il televisore a rate, e quando il mercato immobiliare era in bolla. Beh, Mariano Bella, sicuramente c'è anche questo aspetto di neosobrietà, ma qui ormai è un po' troppo che dura la neosobrietà per essere solo sobrietà. Sì, no, direi che queste sono interpretazioni consolatorie, ma non è che c'entrino proprio l'obiettivo. La sobrietà è un valore quando non è imposta, quando è una scelta. Qui abbiamo una riduzione drammatica sia di reddito che di consumi, quindi, come dire, risulterebbe quasi una provocazione nei confronti di quelli che non arrivano alla fine del mese e che sono, secondo lui, no, ma c'è anche la neosobrietà che non è... c'è anche la neosobrietà. Anche è vero, una parte di riduzione dei consumi e riduzione degli sprechi, questo è un fatto positivo. Sì, no, noi spieghiamo anche che la nostra sobrietà vuol dire che alcune spese le riduci a zero e altre le tieni uguali. Penso all'elettronica da consumo, certo, però non mi fate sempre la solita battuta: però l'iPhone o i tablet vengono venduti. Ho capito, è vero, non abbiamo detto che l'Italia improvvisamente sia precipitata a livello di, certo, alcuni paesi africani, abbiamo solo detto che sei tornato dietro l'86. Poi, se tu tagli l'abbigliamento, tagli l'automobile, nel senso che non la cambi, probabilmente rispetto a queste voci qualche soldo per comprarti il tablet ti resta, certo, ma certo, il saldo complessivamente è negativo. Un conto sono le scelte neosobrietà, un conto sono gli obblighi neopovertà. Certo, certo. Il Natale, Bella. Dal punto di vista dell'ammontare di risorse per consumi di Natale, regali e consumi aggiunti di dicembre, sarà un po' peggio dello scorso anno, però per il discorso fiscale delle varie scadenze. L'elemento positivo è che comunque rimane una buona propensione, ecco, questa incombenza del regalo è una cosa positiva, è una cosa che viene percepita in modo favorevole, e quindi l'85% degli intervistati, qui sto parlando di una serie storica lunga, è una cosa che facciamo ogni anno, scende, ma insomma l'85% è ancora una percentuale molto elevata e dice che effettuerà regali, e il 50% stabile rispetto al passato dice è una cosa gradevole. Ci si orienterà più sulla tecnologia, tablet, smartphone e via discorrendo, e meno sulla tradizione. Aspetto positivo di questo cambiamento di propensione è che comunque non siamo un popolo che si marginalizza ma segue i trend mondiali. L'aspetto negativo è che più tecnologia vuol dire più importazioni, meno tradizione, abbigliamenti alimentari vuol dire un po' meno produzione interna, e questo è un aspetto leggermente negativo che comunque va sottolineato. E infatti diceva anche il Presidente: attenzione alle tasse, Sangalli, neutralizzano, sì, il bonus, sì, e gli aumenti, 1,4 miliardi in meno. Comunque sale la propensione, vedete, per i regali tecnologici, e i regali tradizionali scendono rispettivamente. I tecnologici dal 13 vanno al 15%, quelli tradizionali scendono dall'86% all'84%. Grazie a Mariano Di Bella, direttore del Centro Studi, Mariano Bella, direttore del Centro Studi Confcommercio. E visto che parlavamo di tasse, i 100 secondi di Radio 24 con il Sole 24 Ore, con il vice direttore del Sole 24 Ore, oggi si occupano proprio di tasse e quindi delle scadenze anche fiscali, e ascoltiamoli come sempre. Sono l'autore di oggi, chiaramente il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Dobbiamo dire la verità: di IMU, TASI, TARI, IUC, di tasse sulla casa davvero non se ne può più. Primo perché in molti casi ancora non è ben chiaro che cosa dovremmo pagare. Secondo, perché una volta scoperta quale tassa dobbiamo pagare sarà molto complicato scoprire quanto dovremo pagare. Terzo, perché indipendentemente dalla tassa che ci toccherà, il costo che dovremo versare sarà pesante, spesso molto pesante, comunque più pesante rispetto all'anno scorso. Ce ne dovremmo fare una ragione, perché martedì 16 dicembre sarà il tax day della casa e dentro quella data tutti i proprietari di immobili, sono circa 30 milioni di persone, dovranno versare il saldo delle tasse immobiliari. Ecco, tra migliaia di aliquote e detrazioni, esenzioni, regole particolari, codici tributo, modelli di versamento, c'è un'ultima beffa che vale la pena di raccontare, perché rappresenta l'istantanea finale di questo incredibile caos. In questi giorni, anzi in queste ore, un decreto del Ministero dell'Economia ha cambiato le regole per l'esenzione dell'IMU sui terreni di collina e di montagna. L'effetto è che in 2000 comuni che dove non si sarebbe dovuta pagare l'IVA sui terreni perché considerati montani, i proprietari scoprono invece ora, a meno di 2 settimane dalla scadenza, che devono pagare l'imposta sui terreni, non per il futuro ma già quest'anno, e quindi di fatto con effetto retroattivo. Bene, l'anno prossimo arriverà una nuova tassa sugli immobili, forse si chiamerà local tax, ma al di là del nome speriamo che ci verrà risparmiata la commedia che ci hanno propinato quest'anno. Il prossimo appuntamento con i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, domani mattina alle ore 9. Seguici anche in video su rds.it e radio24.it. Focus Economia. Minuti. Allora, sì, guardate, l'IMU sui terreni agricoli, collinari e montani è veramente, il Sole ci ha fatto anche oggi uno speciale, un'indecenza, ma non tanto l'IMU, ma non è che tu puoi scoprire a dicembre che non sei più in montagna, sei in collina o in pianura e devi pagare l'IMU sul terreno retroattiva, non so. Vabbè, cerchiamo di parlare di notizie positive. Partiamo dalla borsa adesso, subito, oggi vi dovrete accontentare di me. Bene di nuovo, continua ad andare bene Fiat Chrysler, spinta anche dai dati sulle immatricolazioni americane. Ha fatto meglio del previsto, l'aumento delle vendite del 20% e fa il 4,20% di rialzo in borsa. Telecom Italia più 3%. Popolare di Milano più 2,70, Banco Popolare più 2,60, come la Pop Emilia Romagna, Azimut più 2,30, A2A più 2,14%. Bene in generale oggi le popolari, la migliore la Pop Milano, come ricordavamo. Asso Popolari sta preparando una proposta di riforma del sistema delle banche popolari. Attualmente sono banche poco scalabili, per nulla scalabili. C'è una quota massima di partecipazione, c'è il voto capitario per cui ogni voto conta al di là di quanto tu abbia come pacchetto azionario, e questa, secondo le varie ipotesi, Asso Popolari avrebbe dato mandato a dei consulenti esterni per preparare uno studio da presentare a marzo, assieme alla loro assemblea, per essere condiviso poi con le autorità di vigilanza italiane e europee, che hanno più volte sollecitato le banche popolari italiane a rendersi più contendibili, e chiaramente il mercato un po' su questo investe. A2A invece recupera dopo lo scivolone di ieri. Ieri era caduta, come ricorderete, per l'annuncio della cessione di quote da parte dei comuni di Milano e Brescia. Attualmente, inizialmente si era parlato del 5%, oggi i due azionisti hanno molto ridimensionato la cessione, non oltre lo 0,5%, e quindi il titolo recupera. Nel lusso anche oggi non è una grandissima giornata. Ferragamo perde lo 0,30, Moncler lo 0,50%, Luxottica guadagna lo 0,20%, Tod's lo 0,60%. L'unico titolo a andare relativamente bene nel lusso è stato oggi Yux. Ieri sono World Duty Free guadagna l'1,20%. E ancora, dicevo, Yux, perché ieri sono usciti a mercati chiusi dei dati sulle vacanze del Thanksgiving, che hanno regalato i 5 giorni migliori nella storia di Hughes Group per le vendite, perché si andava dal Thanksgiving al Cyber Monday, che ha rubato lo scettro al precedente record di vendite che apparteneva a Black Friday, battendolo del 34%. Ma un nome normale, no? Allora, i peggiori: Monte dei Paschi meno 1,70, Eden Green Power meno 1,40, Buzzi meno 1,30, Moncler meno 0,50, Ferragamo meno 0,30, dicevamo, in assoluto Workspace meno 7,60, Mondo TV meno 4,70, TAS meno 4,20, Bastoggi più 20,40 invece, Edes più 10,20, Visibilia Editore più 9,20%. Cambiamo tema, iniziamo con le notizie positive, visto che poi parleremo di Teleton Italia. Notizie positive oggi riguarda l'acciaio. Abbiamo appena fatto in tempo a fare un'analisi molto approfondita ieri con Paolo Brico del Sole 24 Ore, che oggi diamo un aggiornamento, perché sull'acciaio speciali Terni la vicenda si è conclusa e si è conclusa bene. Paolo, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. Tutte le parti hanno firmato l'accordo e quindi no licenziamenti, solo gli esuberi? Sì, siamo stati ieri buoni profeti, ci siamo avventurati in una previsione positiva, alla fine è andato tutto bene, no esuberi, sì delle dimissioni molto ben incentivate per un numero estremamente limitato. Alla fine dovevano andare a casa più di 600 persone, andranno a casa in meno di 200, però volontariamente, ecco. E poi soprattutto dal punto di vista industriale, a differenza dell'inizio di tutta questa brutta vicenda, conclusasi per fortuna felicemente, non c'è, diciamo, la semi chiusura dello stabilimento di Terni, ma del secondo alto forno, c'è un raddoppio esatto degli investimenti delle linee, addirittura con un investimento annunciato dai tedeschi, come dire, di cui siamo sicuri della perfetta buona fede e serietà, per 130 milioni di euro. Quindi, come dire, una notizia positiva. Per garantire 1 milione di tonnellate di acciaio fuso, no? Con i due forni? Con i due forni, 1 milione di tonnellate di acciaio fuso e anche una presenza sul lungo. Quindi, come dire, in ogni caso una prospettiva di sviluppo e, diciamo, lasciamo poi stare al mercato la valutazione se questa cosa sia stata decisa dai tedeschi per meglio, tra virgolette, reimpacchettare un'azienda che è nell'alluminio, settore da cui loro sono usciti, in attesa poi di venderlo. Ma certo, vendere qualche cosa semi svuotato in questo momento era molto difficile, alla prospettiva di chiuderlo era terribile per il paese, e quindi in ogni caso una situazione positiva. Anche perché il piano è su 4 anni, tu ricordavi i 230 milioni, giusto? I 130 milioni. 130 milioni di euro. Non ci sarà la cassa integrazione, i 290 esuberi sono tutti volontari e resta aperto anche il secondo forno. Sì. Allora, su questo dice la Morselli, che è la Lucia Morselli, l'amministratore delegato della City Terni, l'accordo che tutti volevamo, soddisfatti i sindacati. Soddisfatto anche il premier Matteo Renzi in aula da Camera, che ha poi parlato della siderurgia italiana e dopo essersi definito soddisfatto per la vicenda Terni è arrivato anche alla vicenda Ilva. Sentiamo questo passaggio. A Taranto Ilva noi abbiamo preso in considerazione, e lo facciamo e lo faremo nelle prossime ore, tutti i tipi di soluzione. Dalla possibilità degli investimenti privati internazionali o nazionali, anche la possibilità per un certo periodo di tempo di un intervento pubblico che consenta di affrontare le questioni ambientali e contemporaneamente di tornare sul mercato una volta che quell'azienda torni ad essere, come ha tutte le condizioni per essere, un'azienda leader in Europa. Dunque, restiamo un po', c'è un problema nel file, però Paolo Bricco, la domanda hai 30 secondi per rispondere, sì. Si avvicina l'ipotesi dell'ingresso da Cassa Depositi e Prestiti o siamo alla situazione di ieri? No, siamo avvicina la possibilità che la Cassa Depositi e Prestiti venga coinvolta concretamente. Quest'oggi dovrebbe esserci in serata un ulteriore incontro fra il commissario straordinario Gnudi, che è stato spesso ospite della vostra trasmissione, della nostra trasmissione, il ministro Guidi, Del Rio e lo stesso Renzi, che ha avvocato a sé il dossier, e vedremo che cosa succederà. L'atteggiamento, l'impostazione è quello ideologico che ben conosciamo di Renzi nel tentativo di risolvere questioni complesse. Però va detta una cosa e poi chiudiamo veramente, che come già ricordavamo ieri, l'intervento del Presidente del Consiglio, cioè della politica industriale, che non è dirigismo ma è cercare di mettere il peso politico nella soluzione di trattative, ha cambiato, è inutile girarci attorno, la vicenda Terni, perché i tedeschi prima non ne volevano sapere, poi si è mosso il governo ed è servito. Grazie a Paolo Bricco, adesso GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso, come annunciato, in una giornata in cui non sono mancate anche oggi le notizie così non entusiasmanti, però è buona, ripeto, la notizia che riguarda la ST di Terni. Vedremo se per evitare i rischi dell'acquisizione di ArcelorMittal andrà anche temporaneamente in mani pubbliche, l'Ilva di Taranto. Adesso vorrei concentrarmi su un tema che è di carattere economico, perché parliamo di raccolta fondi, che forse non affrontiamo troppo spesso o come dovremmo, visto l'obiettivo di questa raccolta fondi, ma voi sapete, perché chi segue questo programma ha visto anche come ci siamo comportati quando la legge di stabilità tagliò, poi li ha rimessi, buona parte dei fondi per i parenti di genitori o bambini disabili. Sapete che siamo molto sensibili al tema. Allora parliamo di raccolta fondi, non per speculare ma per curare. Sì, parliamo di raccolta fondi, ma come ogni tanto facciamo, forse non a sufficienza, raccolta fondi per motivi benefici. Ci siamo occupati nel passato di varie organizzazioni, anche di carattere internazionale, su questo fronte. Penso all'ultima iniziativa, quella di Oxfam, e oggi invece ci occupiamo di una ricerca fondi tutta italiana, e raccolta e ricerca fondi tutta italiana, si chiama Teleton, moltissimi di voi la conoscono. È stata presentata oggi la 25esima edizione, che si terrà dall'8 al 14 dicembre, come con il solito formato della maratona televisiva di raccolta fondi. Ricordo che Teleton si occupa di raccogliere fondi per le malattie genetiche rare, e l'appuntamento sarà trasmesso anche quest'anno dalla RAI, e come sempre sul televisore, sullo schermo, sarà attivo il cosiddetto numeratore, cioè quello che permette di visualizzare i fondi raccolti minuto per minuto, grazie alle telefonate che verranno inviate, e lo voglio ricordare, non è l'unica volta che lo ricorderò, al numero solidale 45501, con basta mandare un sms e si ha subito la risposta e il ringraziamento. 45501 o 45501. Siamo in collegamento con il direttore generale della Fondazione Teleton, Francesca Pasinelli. Buonasera. Buonasera, buonasera. E complimenti innanzitutto per quello che fate, visto che il tema delle, non solo delle malattie genetiche rare, ma in generale delle disabilità, noi modestamente l'abbiamo affrontato quando era in discussione la legge finanziaria o di stabilità, sul fondo che riguardava i familiari di persone che abbiano disabilità gravi. Però concentriamoci sulle malattie genetiche rare, che sono tante e, essendo rare, hanno anche un basso numero di casi in alcune fattispecie. Voi avete investito dalla vostra fondazione circa 420 milioni di euro per 2532 progetti, con 1547 ricercatori e 450 malattie studiate. Vorrei subito arrivare ai risultati scientifici, poi veniamo all'utilizzo a quanti fondi raccogliete e a come li utilizzate. Prego Pasinelli. Guardi, i risultati scientifici sono veramente stati straordinari in questi anni. Intanto tutti quei numeri che lei ha detto sono diventati, se così si può dire, pubblicazioni scientifiche, risultati pubblicati sulle riviste internazionali. Questo è un primo grande risultato, perché la condivisione mondiale dei risultati della ricerca è esso stesso motore di crescita, perché le altre ricerche nel mondo beneficiano di questo grande risultato. E se vogliamo rimanere su questi risultati, questo risultato in particolare è stato oggetto anche di analisi, perché non solo il numero assoluto delle pubblicazioni, ma anche il valore di queste pubblicazioni è oggetto di misurazioni che vengono fatte da enti terzi e dimostrano chiaramente che le nostre ricerche svettano internazionalmente ai vertici della competizione mondiale, diciamo, tra scienziati. Questo però delle pubblicazioni scientifiche è un risultato molto importante, che parla del modo in cui noi investiamo il nostro denaro. Il grande risultato a cui noi guardiamo è quello però della messa a punto di cure, cioè che queste ricerche e queste pubblicazioni scientifiche, queste grandi scoperte, poi diventino delle terapie, e auspicabilmente delle terapie fruibili ai pazienti anche di domani, non solo a quelli di oggi. Noi tre terapie le abbiamo già completate, le abbiamo messe a punto, ce ne sono numerosissime altre in corso d'opera, e questo ci rasserena particolarmente e ci conforta sulla modalità con cui proseguire, perché i nostri fondatori questo volevano, che noi mettessimo a punto delle terapie. Ecco, su questo, tra l'altro, voi avete ottenuto un posto prestigiosissimo nella classifica redatta dall'agenzia Thomson Reuters, che ha analizzato le produzioni scientifiche prodotte dal 2001 al 2014? E questo è un risultato straordinario, sì, questa è agenzia Thomson Reuters, è quell'agenzia statunitense che valuta il valore delle pubblicazioni scientifiche, lo valuta anche attraverso il calcolo del numero di volte in cui ciascun articolo scientifico viene citato in tutte le altre pubblicazioni che seguono nel mondo, vale a dire, se io pubblico un dato e chi pubblica dopo di me parla di me, vuol dire che quel lavoro che avevo fatto io è propedeutico a molte altre scoperte che seguiranno, quindi ha impattato nella ricerca internazionale. Ebbene, andando a calcolare il numero di citazioni medie degli articoli pubblicati da Teleton, questa agenzia ha notato che il dato di Teleton ci colloca sopra il dato di Harvard, il dato di Yale, il dato di Stanford, quindi il dato di istituzioni che noi guardiamo normalmente come il meglio di quanto esiste nel mondo, e giustamente li guardiamo con grande rispetto. E questo dato è ancora più indicativo se noi andiamo a considerare qual è la capacità di investimento in ricerca di quelle istituzioni rispetto a noi. Quindi è chiaro che è il dato medio che noi indichiamo, ma è un dato che indica che il denaro raccolto dagli italiani viene investito nella migliore ricerca possibile, e poi il modo in cui questo denaro viene controllato, diciamo, no? Quindi questi progetti vengono controllati in corso di esecuzione, fa sì che questa ricerca davvero produca molti frutti. E tra l'altro lo scorso primo dicembre siete stati premiati alla 50ª edizione degli Oscar di bilancio nella categoria proprio organizzazione erogative non profit. L'anno scorso, se ben ricordo, avete raccolto circa 30 milioni e mezzo di euro grazie agli SMS 45501 45501. Quindi grazie a voi, ma grazie soprattutto agli italiani che in un momento di crisi questi soldi li hanno dati. Importante quanto ricordavo sull'agenzia Thomson Reuters, perché le pubblicazioni scientifiche, così come segnalano quando i professori universitari italiani non fanno una mazza e non pubblicano, segnalano anche quando la ricerca va bene. E se superi come citazioni e pubblicazioni Harvard, Yale e Stanford, hai di che vantartene. Resti con noi, dottoressa Pasinelli. Poi vorrei andare sulla parte ancora più economica: dati della raccolta, costo del mantenere la struttura Teleton rispetto a quanti di questi soldi invece investiti direttamente in ricerca, e da chi arrivano i soldi. 349-238-6666 per gli SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. paradossalmente il nostro sogno è di non avere più bisogno di Telethon, ma questo è un sogno che resta un sogno, non temo, non a breve, a breve termine. Allora, direttore generale della Fondazione Telethon, Francesca Paginelli, la raccolta in questi anni, cioè dalla campagna 2009-2010 a quella attuale, si è sentita la crisi che ha coinvolto, di cui parlavamo prima, le famiglie italiane e i consumi degli italiani? E poi, se mi dice anche come utilizzate questi soldi, nel senso, da chi arrivano, ma quant'è la parte di questi soldi che vi serve invece per mantenere la struttura e quindi non va nella ricerca vera e propria? Guardi, intanto ci tengo a dire che il dato di chiusura della maratona dello scorso anno, che era di 30 milioni e che è il dato che diamo al momento della chiusura della maratona, in realtà poi è arrivato a chiusura di bilancio, che per noi è il 30 di giugno, a un dato di 36 milioni. Bene. Il che vuol dire che dopo la maratona gli italiani continuano a donare e anche le aziende che ci supportano continuano a erogare fondi. Ora, se noi andiamo a guardare il dato di bilancio complessivo di 5 anni fa, per esempio, e guardiamo quello di adesso, c'è una voce a bilancio che è comparsa, che è molto interessante. Intanto la raccolta è stata è leggermente cresciuta, sostanzialmente stabile, dico leggermente cresciuta perché è cambiato il mix delle voci, no? Se penso per esempio alle donazioni telefoniche, quelli che erano 5 euro sono diventati 2 euro con l'SMS, ma sono molto aumentati i donatori. Ma c'è un dato molto importante, che è il dato che ci viene da fondi che noi chiamiamo istituzionali, che sono fondi che nascono anche da accordi con industrie farmaceutiche, che noi facciamo per la garanzia della produzione dei farmaci, quindi della messa in commercio dei farmaci che noi abbiamo sviluppato. Noi ci occupiamo di una materia molto delicata. Queste malattie rare non rappresentano un'area commercialmente interessante, quindi per noi riuscire a garantirci che l'industria farmaceutica... Scusi, la spiego, perché sennò... Allora, il fatto che le malattie siano tante ma rare vuol dire che ci sono milioni di persone coinvolte, ma con migliaia di casi per ogni singola malattia. Questo non rende conveniente, è brutto dirlo, ma è così, all'industria farmaceutica, che è un'industria, sviluppare la ricerca di farmaci quando hai pochi casi, seppur gravissimi, ma non hai un numero sufficiente di casi da fare massa critica. Mi rendo conto che il ragionamento può sembrare cinico, ma l'industria farmaceutica è un'industria, non fa diciamo no profit e non è un ente benefattore. Quindi lei diceva, in questi casi... In questi casi noi abbiamo provato invece ad avvicinarli, cercando di convincerli, spiegare loro che nell'ambito della responsabilità di un'industria che come per mestiere fa farmaci, anche avvicinare terapie come quelle che avevamo messo a punto noi poteva essere interessante, tanto più che, intendiamoci, queste terapie adesso funzionano per malattie così rare, ma in futuro sono tecnologie espandibili a malattie molto più diffuse nella popolazione. E siamo riusciti ad avere, a cogliere il loro interesse, e questo sta tra l'altro portando altro denaro, un flusso importante di denaro che viene tutto dedicato alla ricerca italiana di settore. E quindi il nostro bilancio, che complessivamente all'inizio nel 2009-2010 era intorno ai 40 milioni di euro, poco di più, 42 milioni, si è chiuso al 30 di giugno di quest'anno a un valore di 58 milioni, quindi con una crescita del 38% in 5 anni, che è un dato molto significativo, non solo di interesse degli italiani che hanno deciso di investire in questo, ma della capacità di questo investimento degli italiani di generare un afflusso di denaro anche da aziende straniere in un momento in cui stanno sostanzialmente disinvestendo. Molto importante. Quindi lei dice, è aumentata... Sì. È cresciuta la raccolta del 38%, però non è cresciuta solo o soprattutto per le donazioni dei privati, ma, se ho ben capito, è aumentata la quota parte dei proventi istituzionali, no? Esatto. Cioè delle case farmaceutiche, diciamola così, e che decidono, nonostante non sia conveniente da un punto di vista del solo ragionamento economico, di unirsi alla vostra attività di ricerca. Esatto. Mi sembra una lobby molto molto virtuosa. Senta, c'è anche un libro della nostra giornalista di Radio 24, Valentina Furlanetto, che non riguarda voi ma riguarda il mondo del no profit, in cui sostanzialmente, che ha fatto molto discutere, molto criticato in alcuni casi, elogiato in altri, ma che aveva come tema portante anche la domanda che tutti ci facciamo. Lei in parte ha già risposto ricordando i successi nella ricerca, ma insomma, quanta parte di quello che viene raccolto, e quindi i 58 milioni complessivi tra raccolta, diciamo, via Telethon, maratona televisiva e proventi istituzionali, va effettivamente all'attività di ricerca e poi sviluppo di terapie, e quanta parte serve a mantenere la struttura? Non che ci sia niente di male, perché non è che chi lavora in Telethon debba essere un volontario e farlo gratis, e non, io non sono contrarissimo a questa idea per cui se fai qualcosa di buono devi fare in maniera volontaria, invece se vendi a materie o manufatti devi guadagnarci magari a volte anche tanto. Però quanta parte è il costo della struttura? Guardi, glielo dico con un semplice numero, diciamo su tutti gli impieghi, appunto, quindi costo della struttura e impieghi, in ricerca è andato lo scorso anno il 77% dei fondi, quindi il 23% degli oneri è stato destinato al mantenimento della struttura, che è un dato molto interessante, è in linea con le migliori prassi internazionali. Concordo con quanto dice lei, che non è immaginabile un abbattimento dei costi di struttura a zero, perché soprattutto quando si parla di aree così come dire tecniche, qual è il mondo della ricerca, per poter far progredire bene i programmi servono persone competenti alla guida di questa cosa, e quindi persone che siano professionalizzate in un settore che è un settore molto delicato, quello della ricerca scientifica e dello sviluppo del farmaco. La stessa amministrazione dei fondi raccolti richiede molte competenze, la gestione, indipendentemente dal semplice costo della raccolta. Sì, e mi sembra un dato buono. Tra l'altro, su questo, quante persone lavorano stabilmente in Telethon? Lavorano stabilmente 108 persone. Un'ultima... Tra l'altro, anche questo è un dato molto importante, sono 108 persone che lavorano tutte con dei contratti permanenti, quindi è una organizzazione che dà lavoro a persone le quali sono interamente dedicate al funzionamento, ma soprattutto la gran parte ai programmi di valutazione della ricerca, di monitoraggio dell'andamento dei programmi di ricerca, amministrazione della ricerca e poi anche sviluppo della ricerca verso le terapie. Senta, un'ultima domanda, direttrice Pasinelli, mi chiedono anche gli ascoltatori di SMS, quali, si può citare alcuni dei casi in cui la ricerca si è poi tradotta in una speranza di cura? Sì, dunque, sono nomi un po' complicati, ma insomma le malattie per cui abbiamo messo a punto una terapia definitiva, prima ho detto tre, in realtà poi ho dimenticato una quarta che è anche quella piuttosto importante, sono tutte malattie genetiche, sono tutte malattie rare, hanno tutti nomi tanto complicate quanto sono complicate le malattie, due sono due immunodeficienze molto gravi, che vuol dire che sono malattie per cui pazienti affetti hanno un sistema immunitario che non funziona bene e quindi come dire, questi pazienti possono morire a causa di infezioni anche molto blande. Una si chiama immunodeficienza acquisita grave da deficit di adenosine deaminasi, che è un enzima che manca, l'altra si chiama sindrome da Wiskott-Aldrich, di Wiskott-Aldrich. Poi altre due malattie che sono state curate sono una gravissima forma neurodegenerativa basata su un difetto genetico che si chiama leucodistrofia metacromatica ed è una forma gravissima di una malattia che comporta la morte dei bambini che ne sono affetti nel giro di un anno e mezzo, due, dalla comparsa dei sintomi, e in questo caso pure, e in tutti questi casi abbiamo messo a punto le prime terapie al mondo utilizzando una tecnologia molto innovativa che è la terapia genica, per la quale quindi viene inserito nei soggetti che hanno un gene corretto, diciamo, il gene corretto, quindi è un gene che viene usato a scopo terapeutico, quindi la terapia genica. E l'ultima di queste malattie è una malattia anche qui ereditaria che comporta una perdita della vista e la cecità, che si chiama amaurosi congenita di Leber, e questa è un'altra delle quattro malattie che abbiamo messo a punto finora. in partenza ci sono, diciamo, in corso di studi preclinici, c'è cioè una ventina di malattie. Fra quelle che sono prime nell'ingresso in clinica posso citare la talassemia, per esempio. Ecco, una cosa che ci chiedono gli ascoltatori, senta, ma se uno volesse fare una donazione più consistente dell'SMS, il numero è 45501 45501, come può fare? Io direi in questo momento molto brevemente che se va sul nostro sito, vanno sul nostro sito www.teleton.it, possono trovare tutto, incluso il numero di conto corrente postale. Dove no, perché era un'idea, ecco, allora, il sito di Teleton è un'idea anche per gli ex consiglieri regionali che stanno facendo le cause sui vitalizi. Adesso mi è venuta in mente. Voi qualunque tipo di fondo accettate, chiaramente non ha nome. Assolutamente, anzi posso dire che negli ultimi anni i lasciti testamentari sono anche dei politici o degli ex politici. Degli ex politici nessuno per ora, ma se lo volessero fare siamo molto contenti. Oh, allora un bellissimo consiglio, Luigi Corbani, che è il presidente degli ex assessori, consiglieri regionali della Regione Lombardia, che sta facendo tutta la causa sui vitalizi. Bene, se la vincerete, Corbani, dateli a Teleton o chi volete voi nel mondo del non profit. Grazie a Francesca Pasinelli, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.